Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Noi siamo proprio davanti alla villetta, la macchina che vedete andare via in questi minuti è proprio la macchina di Francesco Sicignano, l'uomo che ha ucciso nella notte tra lunedì e martedì un rapinatore, un giovane di 25 anni che si era introdotto in casa sua non da solo, appunto probabilmente per rubare. Si sta andando in questi minuti proprio dal magistrato per essere sentito dagli inquirenti, perché a questo punto bisognerà chiarire effettivamente cosa è successo quella notte. Perché? Perché il corpo del 25enne è stato ritrovato all'esterno dell'abitazione dell'uomo e non all'interno come inizialmente era stato ipotizzato. Per questo motivo, da eccesso di difesa e legittima difesa, si è passato poi alla... Già mi è arrivato un SMS fra il giornale radio e l'inizio della trasmissione. Primo passo la comprensione, secondo passo dire che è inutile la prigione, terzo passo liberi tutti, praticamente non colpevoli per il male si fa. Non so, caro Nicoletti, questi ladri non rubano valori, ma la serenità delle famiglie. Io l'ho provato sui miei figli, i carabinieri non ci fanno nulla, se li arrestano d'accordo, non bastano, dopo due giorni escono, quindi un delinquente in meno non lo rimpiango. Faccio una premessa, non sono mai stato di sinistra e non sono mai stato buonista soprattutto, però devo dire oggi, tra l'albanese che scavalca il cancelletto di una villetta e si becca una revolverata, ci sta tutto. Deve cominciare a pensare che fa parte delle regole del gioco. Se entri abusivamente in una casa per rubare, puoi trovare anche il pensionato che ti spara. Quindi penso che faccia parte dei suoi rischi professionali. Ma però non riesco nemmeno a crearmi come un idolo di orgoglio nazionale il pensionato che si affaccia alla balaustrina della sua orribile villetta rosa confetto con la ringhierina verniciata di bianco che ha difeso a colpi di pistola. Mi sembra che c'è qualcosa che non funzioni, che quelli che pensano che la patria, che la nazione, che l'orgoglio nazionale siano valori da difendere perché sono oltraggiati da chi porta avanti da sempre una battaglia contro appunto tutto quello che per noi è importante, questo pensionato. Questo è un signore, ha preso una pistola e ha sparato a un altro, benissimo, ha difeso la sua proprietà. È tutto da vedere, è tutto da accertare se l'ha fatto mentre il ladro era veramente dentro casa o ancora il ladro stava fuori. Non può essere questo un eroe nazionale, non può essere in quella villetta rosa confetto rappresentato il simbolo della riscossa dell'Italia nei confronti dell'invasore straniero. E lo dice una persona, vi giuro, che non ha mai avuto nessuna tentazione né di essere populista, né di essere buonista, né di essere di sinistra. Questa è la trasmissione di oggi, a tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento. Melog. Cronache meridiane. È un saluto veloce quello che Sicignano riserva ai manifestanti che si assembrano sotto casa sua per esprimere solidarietà. Sono cittadini di Vaprio d'Adda e militanti di Fratelli d'Italia. In questa villetta che Ignazio Sicignano ha esploso un colpo di pistola ferendo a morte un ragazzo, probabilmente straniero, che si era introdotto in casa sua. Dopo aver sparato, Sicignano è uscito sul balcone del terzo piano e ha esploso altri colpi per mettere in fuga la banda. Non solo manifestanti, ma anche i parenti sono passati a trovare il pensionato di 65 anni per dare il loro supporto. Queste le parole del nipote. Sono scossi ovviamente quello che è successo, ma per ora tutto a posto. Sicignano. Sapevo che avrei fatto arrabbiare il pubblico, sono anche molto contento di averlo fatto. Dice Nicoletti, lei che si crede per criticare il colore confetto alla balaustra del tipo che ha sparato, non lo critico, lo osservo come valore estetico, un valore estetico che non appartiene alla dimensione dell'eroe, perché è una persona sì che difende la sua proprietà, è giustissimo, sacrosanto, la legge glielo permette, bene lo faccia, ma lasciamo che si gestisca il suo rapporto poi con le conseguenze del suo gesto, non facciamone un eroe. Non mi piacciono le folle che vanno sotto a manifestare. come se diventasse improvvisamente il fulgido eroe nazionale, un pensionato che ha sparato a una persona. Non è che l'Italia può essere salvata dai pensionati che sparano alle persone, toglietelo dalla testa. Questo lo dice una persona che in realtà lo dice non dalla superiorità di all'estero alla radio, come scrive qualcuno, da una riflessione che ha fatto di una vita che ha vissuto e osservando tutti i fenomeni. Vi dico veramente che non è un eroe nazionale questo signore, è un signore comunque, come ogni privato cittadino, ha fatto delle scelte, ha preso una pistola, l'ha denunciata, poteva tenerla in casa, poteva anche usarla. Se il suo è stato un eccesso di legittima difesa, lasciate che sia un tribunale a deciderlo, non sotto casa, non che lui si affacci come il duce a Palazzo Venezia, perché evidentemente questo è che richiama l'iconografia del mito di destra, fiero sotto la folla che lo applaude. Ha sparato, si prenderà le conseguenze. Un'altra persona magari si mette un cancello rinforzato, si mette una porta blindata o si fa qualcos'altro, non so bene che. Non può essere una scelta d'esempio, questo è il mio punto di vista. 800240024. Scusate se parlo male, ma ho avuto un intervento alla bocca e quindi ho qualche difficoltà di gestire le mie parole, solo per questo. Stefania, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista. Allora, io capisco il suo di punto di vista, perché io sono una non violenta, quindi non possiedo, io guido un taxi ma non possiedo neanche... No, io sono violento di natura, le dico. Io devo controllare la mia violenza a volte, che sono... Tendo all'aggressività, quindi la capisco perfettamente, ma non mi piace l'eroe nazionale, il pensionato sul balconcino, questa è una cosa che trovo sciocca, sinceramente. Ma però ecco, io quello che volevo dire, io non possiedo neanche una limetta per le unghie che potrei usare come arma di difesa in macchina, quindi però lo Stato secondo me ha tutte le sue colpe, perché fa sempre passare l'idea che tu puoi fare 50 rapine e non ti succede niente, quindi se passa anche l'idea che puoi essere ammazzato anche da un pensionato, probabilmente, visto che lo Stato non ci pensa, noi dobbiamo fare anche la nostra per far capire a questi ladri che ci hanno un po' stufato. Guardi, l'ho detto come premessa. Capiranno oggi gli scavalcatori di balcone che potrebbero trovare dentro un pensionato che gli spara addosso. Benissimo, ci sta tutta. Capiranno e faranno maggiormente le loro valutazioni. Magari ci andranno armati la prossima volta e faranno chi spara prima e chi spara meglio. Non so se l'escalation convenga. Comunque sia, non è un eroe nazionale. Non è che ha svolto una funzione pubblica e civile sparando all'albanese o di qualunque nazionalità sia l'aggressore. Non è assolutamente così. L'ha sparato, se ne prenderà le conseguenze, perché giustamente anche un atto estremo, se vogliamo anche giustificarlo, giustificato, comunque ha delle conseguenze, però non che sia un eroe nazionale, non ha svolto nessuna funzione pubblica, civile, non ha salvato gli altri facendo questo. Edoardo Mori, buongiorno. Buongiorno. Edoardo Mori, un ex magistrato, da 40 anni si occupa di armi e di diritto alle armi. Ha scritto diverse edizioni del codice delle armi e degli esplosivi, che è proprio un'enciclopedia proprio sulle armi. Ha fondato un sito www.earmi.it che ha 3 milioni di visitatori all'anno. Con lei siamo spesse volte sentite su questo problema, però questa mattina vorrei portare il problema su un piano tecnico con lei. Usciamo dall'aspetto etico, morale, civile e via dicendo. Un pensionato con una 38 in mano è pericoloso a se stesso e agli altri, o comunque è un giusto e valido deterrente per difendere la villettina rosa? Se continua a dirlo la gente si arrabbia. Prima di tutto precisiamo una cosa, che non difende la villa. Abbiamo infiniti esempi di gente che ladri o rapinatori entrati nella villa hanno preso il proprietario, l'hanno torturato, l'hanno ucciso a calci. Quindi quando uno entra in casa per commettere un reato non si può assolutamente prevedere in anticipo che cosa farà. Quindi si ha tutto il diritto di difendersi come se quello fosse entrato per uccidere. Ma questo io non l'ho messo in dubbio, il suo diritto a difendere. Seconda cosa. Dico, però se ne prende anche le conseguenze, come è giusto che sia. Io questo che non sia un eroe è perfettamente vero, non c'entra niente l'eroe, però ciò che disturba il cittadino, sa cos'è? Che questo, che ha esercitato assolutamente, per quanto ne sappiamo, in modo legittimo il suo diritto, venga trasformato in una vittima. Vittima, sa perché dico vittima? Perché per il solo fatto che il PM gli venga in mente di indagarlo, questo si deve prendere l'avvocato e se lo deve pagare. Cioè questo alla fine si può trovare ad avere un processo, aver speso 10-20 mila euro per difendersi, mentre sarebbe suo diritto di non dover spendere neanche una lira. Ma esiste, ecco, mi spiega qual è il limite però fra l'esercizio della legittima difesa E l'uso di un'arma indiscriminata per sparare contro chiunque si avvicini o si entri dentro casa propria. Io, guardi, l'ho già fatta la mia premessa, sono sincero, non sto dalla parte di nessuno, non mi fa nemmeno un'eccessiva pena l'albanese e non trovo che... E uso indiscriminato dell'arma. Quando uno entra in casa, o è uno che, o il proprietario conosce le arti marziali, esperto come Segal di arti marziali, oppure un altro sistema per difendersi che è quello di avere un'arma che spara, non certo può affrontarlo con un coltello. Ma quali sono le circostanze per cui un magistrato potrebbe avere voglia di capire meglio se la cosa è... Ma questo è il punto, il magistrato quando eleva un'accusa o un sospetto deve avere degli elementi, non può immaginarselo, cioè se risultasse che il ladro è stato colpito alla schiena mentre scappava ed era già in fase di fuga, si potrebbe dire hai sbagliato perché nella schiena non si può mai sparare. Ma bisogna dare il tempo un attimo, un attimo tempo che vada avanti il magistrato prima di farne un errore. No, appunto il magistrato deve stare cauto prima di sbattere come mostro accusato di omicidio volontario, immaginate, un poveretto di pensionato, deve avere qualche elemento, cioè il cadavere è stato trovato col proiettile nella schiena o nel petto. Se dicesse lo imputo di omicidio volontario perché il cadavere l'ho trovato col proiettile nella schiena, nulla da dire, ma solo per il fatto di dire siccome non so cosa è successo lo imputo, lo indago per omicidio volontario, è un assurdo totale giuridicamente, è un atto illegittimo giuridicamente. Il PM non può sollevare un'accusa se non ha elementi sufficienti per renderla plausibile. In questo caso, secondo lei, perlomeno ancora non è chiaro se ha sparato in casa, se ha sparato fuori, non è chiaro nulla in questo. Quindi il magistrato avrebbe dovuto avvisare il soggetto dicendo guarda, io ti indago perché può darsi che emerga qualche cosa a tuo carico e tu hai il diritto di difenderti in anticipo, se vuoi prendersi un avvocato te lo prendi. Ma secondo, il PM non deve andare a raccontare alla gente perché cosa ha indagato. C'è la privacy e c'è il segreto e non il segreto, il dovere di essere riservati sugli atti d'ufficio. Quindi su questo caso secondo lei c'è stato il solito meccanismo per cui c'è un trapelare di informazioni dovrebbero rimanere riservate, diventa appunto un fatto di stampa. Questo e viene cavalcato anche in maniera demagogica poi da chi ha interesse di cavalcare. Perché poi questo modo di fare, siccome trasforma una vittima in mostro sulla prima pagina, per molti potrebbe essere il mostro che ammazza i ladri, per molti è il mostro, per molti anche l'eroe, oggi è più eroe che mostro, perché però. L'eroe è chi affronta con suo rischio un rapinatore armato, come ha fatto quel benzinaio, se ricorda qualche sì, quello è tutta quello un'altra situazione, eroe, perché ha rischiato la vita. Quando uno con fucile da caccia va contro uno che sa il cavallo rischia la vita, in questo caso no, però dice la legge, esattamente dice che non è punibile e si ritiene che uno abbia fatto bene, quindi se abbia fatto bene se si usa l'arma dentro la propria abitazione al fine di difendersi. Anche perché, scusi, se uno compra un'arma e la denuncia, l'arma serve per sparare e per ammazzare, non è che serve per raccogliere le fragole. Quindi se tu ti danno il permesso di tenere una pistola in casa per tua difesa, è automatico, immagino, che hai il permesso. Ma la legge non è cambiata proprio, perché una volta, sia chiaro, non la legge che era chiarissima, ma i giudici si erano inventati che anche in casa, quando uno sparava, doveva fare il professore di filosofia e dire ma sparo, farò bene a sparare. Alto là, chi va là, come quando le sentinelle. Dare l'avvertimento, queste cose che è cose assolutamente. Oggi assurde. Cosa dice la legge? Vediamo di chiarire i termini esatti. Dice, nel caso di violazione di domicilio, sussiste il rapporto di proporzione, cioè si ritiene che la reazione sia adeguata, se taluno presente nei luoghi usa un'arma per difendersi, punto e basta. Quindi non esiste il fatto che il ladro sia disarmato? Non c'è tempo di accertarlo, si immagina al buio se uno può capire in casa, se uno può capire, e poi quanta gente è stata ammassata a pugni e calci. Certo. È un pensionato, se immagina, l'ha mai visto quelli che fanno? No, ma sappiamo tutto, ma qua non assolviamo nessuno. Salgono sui balconi, sa che saltano dal balcone all'altro come grilli? Sì, lo so, salgono sulle grondaie. Chi è che li aggredisce quelli? Chi è che si difende da quelli? Quindi io voglio questa mattina capire da lei la regola. Allora, se uno si compra la pistola, la denuncia e la tiene in casa, vediamo, ha perfettamente diritto, come sente un rumore, capisce che qualcuno è entrato a casa propria dalla finestra, perché bisogna stare anche attenti che non sia il figlio che esce che entra nottetempo dalla porta. Se spara può stare tranquillissimo, che comunque sia, se anche ammazza una persona, ha esercitato un suo diritto. o sbaglio? Salvo, no? Sì, salvo, poi particolari circostanze in cui dice hai acceso la luce, hai visto che era un ragazzino di 15 anni, hai visto chiaramente che era disarmato, in quel caso bastava puntargli la pistola contro e dire o sparare un colpo in aria, che il botto è talmente tale che stavano assordati tutti e due. Ma sa che il teatro dell'evento, uno sta a casa sua, entra uno, gli spara, poi accende la luce, chi mai capirà se prima ha acceso la luce o prima ha sparato? Quelle sono cose vere, deve dimostrare l'accusa. Deve dimostrare l'accusa, io posso dire era al buio, gli ho sparato, poi magari gli ho acceso i riflettori addosso e poi gli ho sparato, l'ho fucilato, è un altro discorso. Tengo presente che i tedeschi con una legge, con una norma che c'è già più di 100 anni, anzi 120 anni, avevano stabilito questa norma perfetta che diceva che non è punibile chi ha agito sotto l'eccitazione, del momento, la paura, l'ansia del momento. Che è la tipica situazione di uno che si vede entrare un ladro in casa e non c'ha tempo di andare a pensare col bilancino cosa farà il ladro sarà buono, mi è simpatico, c'è cioè lo sguardo cattivo, quello la prima cosa che fa spara e poi va a vedere chi era. Allora ci fermiamo un istante con l'ex magistrato Edoardo Mori che arriveremo fra pochi minuti. Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Melog. Cronache meridiane. Atto dovuto, l'iscrizione nel registro degli indagati di Ilario D'Apollonio, l'imprenditore che sabato scorso ha sparato e ucciso Nicolae Valentin Barbatto Romeno, il 36 anni, che si era introdotto in casa sua con altri due complici. L'uomo, 81 anni, è indagato per omicidio volontario, mentre i carabinieri hanno arrestato i due romeni che, senza riuscire a portare via alcun bottino, si erano dati alla fuga. Un quartiere tranquillo della periferia di Roma, una coppia di anziani che trascorre una serata come tante nella villa di Casal Boccone quando lui, imprenditore edile, sente dei rumori sospetti. Ci trovavamo su due diversi piani, ha raccontato agli investigatori, mi sono affacciato alla finestra e ho sorpreso uno dei rapinatori. Questi sono altri casi di situazioni simili, quando sono stato prima brutalmente interrotto stavo dicendo che secondo me dovrete abituarvi, se volete ascoltare questo programma, che la realtà non è mai rappresentabile attraverso due contrapposizioni nette. O è un eroe di tutti gli italiani o è un bieco assassino di poveri albanesi. Esiste una maniera più riflessiva di affrontare questo problema, che permette comunque di darlo in tutte le sue sfaccettature. Questa è la mia intenzione di questa mattina, questo vorrei soltanto farvi capire. Non è impugnando la bandiera o dell'orgoglio nazionale o del buonismo di facciata e di maniera che si risolve il problema. Bisogna capire, se tutti i pensionati d'Italia si armassero e si mettessero vigili dietro il tavolo del loro salottino ad aspettare il ladro pronto a sparargli, si risolverebbe il problema? Ci sarebbero meno ladri? Avremmo meno problemi? Può essere di sì. Se è così, sono pronto a accettare, se questa è una realtà oggettiva, ma nessuno mi impedirà di riflettere al di là degli stereotipi, perché questo penso che sia il mio mestiere. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Certo, benissimo. Io non dico che è un eroe, ma che ha fatto bene, lo posso dire, diciamo che può dire quello che vuole. Dobbiamo dare un segnale, visto che la magistratura italiana non so per chi lavora, non lavora per gli italiani, la paghiamo noi, ma sì, questo però scusi, parliamo di cose oggettive, queste non sono ipotesi, lei può dire la magistratura è tutto quello che vuole, ma certo, fermiamoci al fatto. Ma scusi, il romeno che viene in Italia deve sapere che troverà qualcuno che gli spara, questo l'abbiamo detto, sono sempre romeni. Ma scusi, ma lei si chiede perché questa gente viene qua e si telefonano tra loro, ci sono intercettazioni che dicono in Italia si può andare, venite perché qui si può fare di tutto. Ecco, ma lei pensa che la soluzione, scusi, dare questo, sì, tranquillo, dare Angelo, questo segnale noi, tranquillo, alla gente. Angelo, tranquillo, non ci scaldiamo e non cavalchiamo, perché dobbiamo dare un segnale di questo genere, oh, alla gente? Devono sapere che troveranno qualcuno che gli spara. Ma cos'è, l'esercito dei vecchietti con le pistole? Ma che non pensa fa niente, che... io se mi voglio chiamare vecchietti, io sono 74 anni, beh, io sono una persona che sembra entra dentro casa, una persona gli sparo. Angelo, sono dentro casa mia, sono dentro casa sì, mia. Sì, ma calmo Angelo, mi scrivono a me: cosa faresti Nicoletti se entrassi a casa sua? Io non ho armi a casa, io gli strapperei il fegato e glielo mangerei se serve per difendere i miei figli. Quindi, ma che non è... so io quando questo entra dentro casa sì, mia? Ma no, non è che dico che voglio fare il buonista, non lo farei mai. Sto cercando di capire, riflettere se sia da cavalcare questa onda emotiva. È bene che ci sia, certo, è bene che ci sia una dimostrazione, un io non sono così sicuro. Perché lo Stato italiano, che è lo Stato che di quella cosa marrone che puzza. Sì, vabbè. Vabbè, Angelo, ci salutiamo. Angelo. Non ho capito, se lo faccio da qualcun altro, non mi interessa quello che pensa dello Stato. Ho tutti i motivi come lei di avercela con lo Stato, ma in questo momento sto parlando quanto sia opportuno il segnale che gli italiani si stanno armando a casa per risposta alla criminalità che probabilmente molte volte agisce impunita. Ricalcate sempre il vostro luogo comune, o da una parte dell'eroismo è giusto fargliele vedere, o dalla parte che chiamano in pochi questa mattina, perché in effetti hanno pochi argomenti, dire poverino, anche il povero immigrato ha i suoi diritti. Paolo, buongiorno. Buongiorno, io volevo semplicemente dire che non si possono chiamare i ladri in questo paese, fino a prova contrario, non si possono chiamare i ladri scavalcatori perché? Di balcone. Perché no? Perché ladro è una definizione, scavalcatore di balcone è anche il pompiere che va a salvare qualcuno. Paolo, sa nel gergo... Nel i gergo, ladri vanno chiamati sentire. Ladri. Sì, vabbè, ne fa una... lo sa nel gergo della malavita, come si chiama l'entrare in una casa, famono scavarco. A Roma i coatti dicono annama fano scavarco, è un termine gergale, si informi, è molto più preciso dire fare lo scavalco che dire ladri, perché ladro sa quanto se ne sbatte il ladro che lei lo voglia chiamare ladro per difenderlo, per difendere il pompiere che fa lo stesso tipo di lavoro. Non sia ridicolo, sia gentile. Stefano, buongiorno. Ah, buongiorno. Sì. Io telefonavo semplicemente per fare presente che c'è una condizione giuridica diversa rispetto al ladro che entra per esempio in una civile abitazione, è un ladro che entra in una caserma. Io per esempio ho fatto il carabiniere nel militare ed ero soggetto alla vigilanza della caserma, certo. No? La caserma è quasi automatico che ti sparino. Ecco, però io quando io per esempio ero di servizio mi dicevano sempre: se te vedi una persona che scavalca il muro di cinta e questa qui se te gli spari e cade dentro e muore, sei tutelato e questo non è, diciamo, responsabilità oggettivi, perché tu stai difendendo la caserma, in caserma ci sono le armi e cose del genere. La tua sfortuna potrebbe essere se questo qui cade invece di fuori del muro di cinta, no? E allora va a dimostrare che non gli è sparato affacciato al muro, certo. Ecco, allora mi chiedo perché deve esserci una responsabilità giuridica diversa rispetto a un militare che difende una caserma. Che ha comunque delle regole d'ingaggio, gli viene detto devi prima avvertire, alto là chi va là, poi sparare un colpo. Io l'ho fatte le sentinelle, mi ci sono ghiacciato le mani a fare le sentinelle ai lancieri di Montebello. Alto là chi va là, poi fermo sparo, poi sparare in aria, sì, poi sparare. Certo, però succede che se te, diciamo, spari a uno che ti entra in caserma, questo muore. Non hai una responsabilità come può essere invece un cittadino che ti entra, un ladro a casa tua e che magari comincia una colluttazione e c'è un coltello e te c'è la lomassi, invece ti vai per omicidio colposo. Cioè, il militare non va incontro a un omicidio colposo se spara uno dentro la caserma. Cioè, perché allora c'è questa differenza? Cioè, voglio dire, io difendo casa mia, i miei figli, dentro la casa mia io potrei avere anche delle armi. C'è tanta gente che ha dentro casa, a corto d'armi, ha delle... da, non so, 30 fucili, 40 fucili, l'uno entra dentro, ruba i fucili, poi va a fare il rapinatore. Cioè, voglio dire, la casa è come una caserma. Sì, ma l'abbiamo già detto. Edoardo Mori, ricordo che si occupa da 40 anni di armi e diritto alle armi. Vediamo di fare un punto, però. Diamo per scontato che è stato definito il quadro giuridico in cui si può sparare a casa, è un legittimo diritto di farlo, se uno ha tutte le caratteristiche civili, giuridiche, di fedina penale pulita, di poter comprare un'arma, può usarla dentro casa. Ma viene richiesto anche la perizia nell'uso dell'arma quando uno acquista un'arma per tenerla in casa? Sì, viene chiesto anche quello. Uno deve aver fatto il corso al tiro a segno per avere il certificato di idoneità al maneggio. Ma diciamo che quella è un'idoneità che più che altro è diretta a evitare che uno si spari nei piedi e se invece di colpire il ladro colpisca la moglie. Se lei dovesse dare un consiglio, per assurdo, quale arma comprare, senza dire marca, ma dire modello. Questo signore aveva una 38. Guardi, le armi sono tutte uguali e sono tutte pericolose. Cioè è sufficiente allo scopo, non ha assolutamente importanza. Dal calibro 22 al 45 va tutto bene. Quindi perché, non c'è un'arma preferibile per un signore, non necessariamente che sia un pistolero, che però... Il revolver, che è un'arma, di solito uno si consiglia il revolver perché è un'arma assolutamente sicura ai fini degli incidenti. Non si inceppa poi. Non si inceppa, si può tenere sempre carica, basta tirare il grilletto e spara, e quindi è la più rapida e immediata. Non c'è bisogno di sicuro, è la più pratica per chi non se ne intende. Però c'ha solo 6 colpi. Basta uno. Basta uno se non lo sa usare, quindi si dà per scontato che deve saperlo. No, guardi, no, uno non si immagina quale rumore faccia una pistola in un ambiente. Le faccio un paradosso. Rimanga assurdo. Le faccio un paradosso. Il signore aveva una calibro 38. Sì. Metti caso che invece che colpire il ladro avesse colpito il fondello fra una parete e l'altra di casa. Quel proiettile 38 sarebbe diventato, diciamo, pericoloso anche per chi abitasse la stanza accanto? No, quello no. No, non passa. Non passa, solo per capire. Sì. Stefano, buongiorno. Stefano? Stefano, c'è? La 4, Massimiliano. Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Niente, io volevo fare un posto paradosso, perché se ci armiamo tutti quanti risolviamo tutti i problemi del suo mondo, no? Cioè, io sono un vecchietto di 61 anni. Vabbè, c'è la mia età, un vecchietto, aspetta, calma. Parli per lei. Lo diceva apposta. Sì. Dicevo che se ci andiamo tutti risolviamo il problema del traffico, no? Non so a lei quante volte ti è capitato di voler sparare a quello che la supera a destra o a quello che le fa la solita prepotenza, eccetera. A me molte volte, e ringrazio veramente Dio, pur non essendo cattolico, del fatto che non ci abbiamo il porto d'armi così facile come sta in America, perché sennò veramente sarebbe una strage. Già è una giungla questa città dove noi viviamo, io e lei viviamo. Immagini se siamo anche armati. Lei sta proprio figurando uno scenario paradossale a Far West. Tutti abbiamo la nostra colta al fianco, chi estrae più veloce vince. Gli equilibri rimangono lo stesso, perché i prepotenti saranno sempre quelli che avranno più gente che gli guarda le spalle, saranno più bravi a usare le armi, avranno le armi più potenti. Comunque sia, se sono tutti armati, non è che esiste la democrazia della Colt 45 che rende gli uomini tutti uguali, come era scritto nel Far West. Ci saranno sempre quelli che si organizzano, spareranno meglio degli altri, e converrà a quelli che non sono proprio dei provetti pistoleri di starsene buoni e zitti, con l'aggravante che gli altri sono tutti armati. Ci fermiamo un istante. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Edoardo Mori, una domanda che mi viene posta da un ascoltatore. Ma se uno invece che una pistola, che è un'arma che può uccidere, si compra un fucile a pompa calibro 12 e lo carica coi pallettoni di gomma, non mette fuori uso lo stesso il delinquente senza rischiare di ucciderlo? Sì, certamente, però teniamo presente che nella distanza dentro un ambiente il pallettone di gomma uccide quanto quello di piombo, quasi. Non esistono pallottole, diciamo, quelle che usava la polizia americana contro le rivolte? Va bene oltre i 20-30 metri. Da vicino sono altamente... guardi, io ho sparato contro tavolati di legno che a 10 metri si resta un bel segno impresso dentro, quindi... Quasi come fosse piombo da vicino? Beh, da vicino, certo. Quindi, cioè quelle mettono fuori uso a distanza di 5-6... Io ho sempre consigliato, per esempio, di sparare a pallini, quelli leggeri, quelli sottili. Quei piccolissimi che sono mezzo millimetro di diametro. Quindi diciamo un fucile da caccia a pallini sarebbe quasi meglio per... Potrebbe essere meglio, diciamo, che in un ambiente piccolo è molto meno maneggevole. Però c'è, che ne so, il Winchester a pompa è corto, sono 60 centimetri. Beh sì, ci sono quelli, ma di solito uno ha il fucile da caccia e usa quello. No, diciamo, quelli si chiamano riot gun, sono fatti apposta. Sì, quelli sì, certo. Sì, ma dico, sono quella lunghezza. No, anche perché così ci si prende meglio, fa una rosa bella grande. Si rovineranno le bomboniere e la gondola sopra la televisione, sono però... Sono estremamente efficaci. Nella mentalità quotidiana, anche lei, ho visto che anche lei aveva questo dubbio, c'è il pensiero che avere tanti colpi serva. Quando uno ce l'ha uno, due è assolutamente fin troppo, non c'è ladro, rapinatore che quando ha sentito due spari si deve aspettare il terzo, quello è poco ma sicuro. Quindi, però la gente tende, chissà perché, immagini che hanno dovuto fare le pistole con 15, 16, 17. È perché guardiamo un sacco di film che sparano e non finiscono mai i colpi, sparano per ore, dei garage, con Van Damme, questi film qua, sparano sempre, uno dice... È quella pubblicità, quella che ha indotto questa mentalità ingiusta. Se sicuramente può bastare un qualunque fucile, nella maggior parte dei casi... Potrebbe bastare come deterrente una pistola salve, però se il rapinatore non si spaventa o sono tanti rapinatori è chiaro che non basta. Se poi ce l'ha vera ancora peggio, a quel punto anche se c'è un martello è peggio. Quindi tanto vale avere un'arma che funziona. Se io sono con alle armi finte a salve sono assolutamente contrario, meglio sì, no, perché, sia se sei rapinatore sia se sei certo. Difensore, perché comunque la famosa barzelletta di Walter Chiari, attento al mirino, certo. Prima il mirino. Dino, buongiorno. Buongiorno. Lei ha un'esperienza familiare che ci può raccontare? Sì, un mio zio che aveva un'oreficeria, anziano, con la cataratta, non vedeva, visto un'ombra, un pausa pranzo ha sparato e poi ha vissuto un dramma, lui, la famiglia, l'economia familiare. Cosa è accaduto? Un vecchietto, insomma, ha dovuto, sono problemi di coscienza prima di giudizio. Quanti anni aveva suo zio? 74. E l'ha ucciso il rapinatore? No, sì, l'ha ucciso e questo l'ha fatto morire poi lui di infarto, insomma, no? Perché non è più guarito dalla vicenda. Ma come accade? Ma... racconti l'episodio. Somiglia a questo, diciamo, di cui stiamo parlando, delle cronache di questi allora, giorni? Allora, nella pausa pranzo, lui che era anziano è rimasto nell'oreficeria. Quindi era un orefice, aveva già, diciamo, un mestiere a rischio. Sì, esatto, aveva, quindi era armato ai tempi insospettabili, parlo degli anni 60. Quindi tra la serranda e il vetro si è infilato questo ladro, lui ha visto un'ombra, ha sparato un colpo solo, l'ha centrato e l'ha ucciso. Ma poi il fatto che capitino queste vicende, io non credo che sia che alzare il livello, alzare il calibro, ma ci sarà sempre la situazione delinquenziale che se io devo rubare qualcosa di prezioso in un posto chiuso e so che sono armati, vengo con un bazooka, cioè voglio dire, non c'è una difesa personale, se no si potrebbe fare prima, si eliminano carabinieri, polizia, regole, giudici eccetera e si torna alla legge della giungla, chi ha l'arma più grande vince, no? È quello che diciamo prima. Edoardo Mori, per la sua esperienza, proprio spassionatamente, questa volta fuori, diciamo, dalle conoscenze concrete, questo potrebbe determinare anche un'escalation di armamento da parte di chi entra nelle case. Finora viaggiamo nell'impunità. L'Italia è un paese felice in cui si può rubare, non si va in galera, ti lasciano subito e poi entri in casa, trovi dei poveri sprovveduti, quindi puoi legarli, torturarli, picchiarli, portarli via tutto, non ti succede niente. Oggi si comincia a passare il messaggio, per assurdo, in Italia anche una persona di una certa età, anche un pensionato, ma chiunque, può prendersi la pistola e sparare. Cosa potrebbe accadere secondo lei? Cade, diciamo, un po' il desiderio di andare a rubare in Italia o aumenta l'idea di farlo con le adeguate attrezzature? No, succederebbe che i rapinatori stanno più attenti prima di entrare in una casa, di sapere chi ci abita, di avere informazioni precise se è armato o non è armato, cosa che attraverso le donne di servizio extracomunitarie dello stesso paese. E questo l'abbiamo saputo da poco, c'è una sorta di... È facile sapere. Intelligence. Sarebbero più attenti, però è chiaro che il problema non è quello delle armi, il problema è della giustizia che funziona. Ricordiamoci che in Italia in materia di furti viene condannato un caso su 10 casi uno solo viene condannato e la pena è simbolica perché non la sconta nessuno e quindi manca totalmente ogni deterrente giudiziario. Certe volte mi viene il dubbio che i pubblici ministeri siano così rapidi nell'indagare chi ha sparato perché è più facile prendere lui che il rapinatore. Per quello non scappa, quello alla fine sta lì. Impressionato non scappa e quindi faccio il processo a lui. No, se tutte le energie venissero dedicate non a fare questi processi che poi alla fine finiscono il 90% in una bolla di sapone, salvo per il pensionato che si pagherà 10.000 euro di avvocato, È chiaro che... No, pare che glielo paghi la Regione Lombardia, ha detto almeno il Presidente Maroni. Vabbè, adesso poi la Corte dei Conti autorizza questa spesa, le promesse è facile farle, ma poi quando si deve affrontare la legge non prevede questo tipo di sussidio alla vittima del PM. Diciamo. Beh, gli darà Maroni di tasca sua se vuole fare un bel gesto e salvare l'eroe dalle maglie oscure della giustizia. Grazie, Comandante Edoardo Mori, anzi, Magistrato Edoardo Mori, grazie a quelli che hanno chiamato, spero di aver dato qualche elemento e valutazione in più e più sereno su questo problema che non si risolve semplicemente facendo una linea tra i buoni e i cattivi. A domani!